tutto corrotto, non tutto risolto, risolto, c'è gente che resta onesta, testa alta, cammina ma nella rovina, vicina alla solita casta, guasta e tasta questo terreno, c'è chi corrompe per stare sereno, mentre amministra ma senza giustizia ricopre la gente col suo veleno. La corruzione maggiore di questa nazione non è la sola, troppi interessi nascosti e omessi, persi menzogna come scaiola, fanno gli affari tra pari compari, tra marica e mani con mani che stringono, fingono, puntano, prendono, mettono il culo nell'auto blu, mentre accusano, chiudono porte aperte, fregano pure la corte, prendono parte, vendono morte, pensano solo ad avere di più. Tu cosa ne pensi se avanti ti danno in un anno di sotterfugi, fuggi oppure combatti finché non li batti, finché non li abbatti e distruggi. Convincono mille persone, tentano sempre la tentazione, danno una corruttibile di verosimile stupida posizione, acquistano con le mazzette le proprie filette, le proprie vendette che tengono strette con mille distette, sette messe in decadenza. Ciò ti corrode, ti rode, se ne già la frode, chi gode lo sa, vuole città, se solo sta, cerca soltanto di avere potenza. Sarebbero più contenti se ci venessero a fondare giù, ma denti stretti combattiamo, non molliamo, neghiamo di più. E mentre loro restano solo a guardare, noi restiamo a pezzi con le tasche vuote. Nessuno e niente che ci salverà, se sarà al potere chi corrode. Sarebbero più contenti se ci vedessero affondare giù, affondare giù. Ma denti stretti combattiamo, non molliamo, neghiamo di più. Corrompono i sudici e giudici quando si scambiano molti favori, qua solo non lo rividiamo gli umori di molti corrotti che fanno gli scaltri, non fanno fatture, non pagano l'IVA, tra mille chiusure ci fanno l'usura, mentre che sentiva la gente si priva di tutto per questi stolti. Comprano gente con finte promesse, c'è chi ti corrompe ma mi interessa, evadono tasse rimosse come se non fosse successo mai niente. Ti raccomando, in case di soldi, ingordi di questo contante, sia presidenti che dirigenti prendono questa tangente.